begli occhi di fata, begli occhi stranissimi e profondi, voi m'avete rubata la pace della prima gioventù. Bella signora dai capelli biondi, per la mia giovinezza che v'ho data. Mi darete di più? Il fiore prendete.